Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. E buon anno a tutti anche a questa trasmissione. 349-238-6666 per i vostri sms per intervenire in diretta. Vedo dagli sms che sono arrivati naturalmente che siete già caldi, perché Oscar Giannino ha parlato nel suo spazio, nella versione di Oscar, ha parlato della vicenda Fiat. Naturalmente ci torneremo anche noi, perché è la notizia economico-finanziaria di giornata. Naturalmente, notizia che avete anche sentito un attimo fa all'interno del giornale radio: l'acquisto da parte di Veba, da parte di Fiat, da Veba, il fondo pensione del sindacato di Chrysler, del sindacato automobilistico americano, della partecipazione del 41,5% in Chrysler. Ci sono naturalmente tutte le reazioni di oggi e tutte le preoccupazioni, tra l'altro, che stanno arrivando soprattutto dal mondo sindacale, naturalmente, che questo, il fatto che Fiat diventi un'azienda completamente globale e con grosso pezzo della sua testa in America, porti anche Fiat a trasferire investimenti e testa in America, spostandosi progressivamente dall'Italia. Preoccupazioni che erano già state espresse in realtà nei mesi scorsi. Adesso, all'arrivo, all'approdo, come dire, dell'acquisto da parte di Fiat di Chrysler, e quindi a fronte della prospettiva di fusione, naturalmente si fanno molto più forti. Vedremo di scendere nei dettagli dell'operazione, criticata da alcune parti. Lo fa per esempio il Wall Street Journal, che dice che insomma questa acquisizione non è una panacea, non risolverà i problemi della casa automobilistica italiana, e Chrysler porta in dote altro debito per Fiat. E quindi affronteremo naturalmente l'aspetto finanziario della questione, lo affronteremo dal punto di vista delle prospettive per quanto riguarda i modelli, il rilancio per esempio del marchio Alfa, e ne parleremo anche appunto sotto l'aspetto della testa. La testa di Fiat dove andrà? Andrà negli Stati Uniti? Sposterà il suo quartier generale? Perché insomma l'idea che sottostà tutto questo sembra essere quella. Ne parleremo tra poco. Nel frattempo Fiat ha tutto da festeggiare in borsa: più 15,6%, più 4,12% Exor, a sostenere parzialmente un listino milanese che oggi è stato meno debole, forse anche in forza di come è andata Fiat, è stato meno debole delle altre borse. FTSE MIB meno 0,20%, FTSE All Share meno 0,14%, il resto d'Europa decisamente più negativa. Francoforte 1,5% di calo, 1,44% di calo per il CAC 40 a Parigi, Londra giù dello 0,4%, America in calo di 0,5% sul Dow Jones e dello 0,66% sul Nasdaq. Anche di mercati naturalmente torneremo a parlare tra poco. L'altro tema sono le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'affronteremo dal nostro particolare punto di vista, come sempre il suo discorso di fine anno, il tradizionale discorso di fine anno. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è soffermato anche sull'industria italiana e soprattutto su quella parte dell'industria italiana che ha saputo affrontare la crisi ristrutturandosi, creando nuovi prodotti, investendo in ricerca e sostenendo dunque il nostro export. Ci sono dei dati molto interessanti forniti dal Sole 24 Ore oggi in edicola, da due fronti: innanzitutto sull'export dei nostri prodotti, e poi ancora sono dati del WTO, dell'Organizzazione per il Commercio Mondiale, che indicano una serie di cose che, sono franco, per certi aspetti hanno stupito anche me, perché risulta per esempio che siamo primi per competitività, sul tessile, i prodotti in cuoio e l'abbigliamento. Nonostante tutto quello che dobbiamo subire, insomma, la capacità di produrre di questo paese e l'approdo in grande stile della Cina sui mercati, vedremo di approfondire anche questa parte. Vi ripeto ancora il numero per intervenire in diretta via SMS, il 349 238 6666. Le notizie in breve. Iniziamo come sempre dalle materie prime. L'oro è risalito oggi di 2 punti percentuali circa, $1,225 l'oncia. Vi ricordo ancora una volta, magari domani troveremo lo spazio per fare una piccola parte dedicata a questo proprio ad inizio anno, perché vi ricordo ancora che l'oro ha chiuso il 2013 con la flessione più forte degli ultimi 30 anni, ha perso oltre il 28%. Da segnalare che però negli ultimi 12, tra il 2000 e il 2012, i guadagni erano stati del 500%. Record storico fu nel settembre 2011, $1,923,7 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, WTI quotato a New York meno 2,02% a $96,4 al barile. Il Brent invece in calo di 1,5% a $109,12 al barile. Dati interessanti che arrivano dagli Stati Uniti. Le richieste di sussidi di disoccupazione sono calate la scorsa settimana di 2.000 unità, quota 339.000, dato migliore delle attese degli analisti. E l'indice ISM manifatturiero è quello che serve a monitorare l'andamento del settore manifatturiero negli Stati Uniti. È calato in dicembre a 57 punti dai 57,3 di novembre. Anche qua dato migliore delle attese degli analisti. Invece è peggio delle attese degli analisti l'indice PMI cinese sui direttori di acquisti. In dicembre a 51 punti, ai minimi da 4 mesi, a novembre era 51,4 punti, gli analisti si attendevano 51,2 punti. Ed è buono invece l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona, e sale ai massimi da 2 anni e mezzo, a 52,7 punti. Livello più alto quindi da giugno del 2011. Bene anche l'attività in Italia, con l'indice che sale a 53,3 da 51,4. E in Germania lieve rialzo a 54,3 da 54,2. Ancora un segnale negativo invece per la Francia, ne abbiamo parlato di Francia nei giorni scorsi, lo sapete, il comparto resta in contrazione, calo a 47 punti da 47,1. Della Lettonia lo sapete, è il 18° paese entrato nell'euro, se volete qualche approfondimento scaricatevi il podcast di Focus Economia del 31, abbiamo avuto un ospite interessante, un professore di economia che lavora proprio con la Lettonia e in Lettonia, quindi insomma ci ha saputo dare qualche spunto interessante anche sui tanti dubbi che circondano certi aspetti di questa entrata nell'euro, come la situazione del sistema bancario lettone, che accoglie molti capitali dall'estero, molti capitali provenienti da paesi dell'ex Unione Sovietica. La Germania, nuovo record di occupazione per il 7° anno consecutivo nel 2013, è stato raggiunto appunto un record con 41,8 milioni di persone con un lavoro. Per quanto riguarda l'Italia, c'è il dato arrivato oggi, o meglio il dato, insomma, un dato di mercato, è il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni. è tornato sotto il 4% per la prima volta da maggio scorso. Il rendimento del decennale del tesoro è arrivato al 3,99% con uno spread tra BTP Bund a 204 punti base, ha toccato anche i 203. Da notare naturalmente che, ve l'abbiamo già, ne abbiamo già parlato nella stessa puntata, quella del 31, però ve lo ricordo che lo spread è indicativo sicuramente, la differenza di rendimento tra i nostri titoli di Stato e quelli tedeschi, ma c'è da segnalare che il rendimento dei titoli tedeschi in questo ultimo anno è cresciuto anche di parecchio, eravamo a quota, intorno a quota 1,3% all'inizio dell'anno, siamo intorno a quota 1,9%, quindi è indicativo il calo dello spread, però è indicativo fino a un certo punto. Dal lato dello spread molti analisti e operatori si attendono che si arrivi a tra i 170 e i 150 punti nel giro di quest'anno, nel giro del 2014. E se inizia bene dal lato dello spread, dal lato del rendimento dei titoli di Stato, quest'anno non inizia bene per tutti noi e per le nostre tasche. Ci sono una serie di aumenti a raffica, parzialmente previsti dalla legge di stabilità, ma non solo. Pedaggi autostradali cresciuti in media cresceranno in media questo primo gennaio del 3,9%, ma con casi estremi come la tratta Padova-Venezia, 300%. E alcuni che non adeguano quasi, insomma, c'è tutta la lista, la trovate sul Sole 24 Ore di oggi. 0% di aumento sulla Asti-Cuneo, 0,82 sull'autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta, e beati piemontesi che deve andare in Valle d'Aosta. E appunto ci sono altri aumenti di dimensioni decisamente più ragguardevoli. Ma non c'è solamente questo, ferme le bollette del gas, ma quelle della luce salgono in gennaio dello 0,7%. Passa come promesso dal 4 al 10% l'IVA su snack e caffè ai distributori automatici. Bloccati per ora i prezzi di lettere raccomandate. Sale dall'1,5 al 2 per mille l'imposta di bollo sugli investimenti finanziari. Accise sui carburanti più 0,4% per finanziare il cinema. Poi ci sono, naturalmente, abbiamo parlato altre volte anche in questa trasmissione, le accise sugli alcolici. C'è il rincaro per le sigarette elettroniche. Insomma, così inizia. Ci sono anche le rilevazioni del portale facile.it sulle assicurazioni auto. Nel 2014 cresce il costo delle assicurazioni auto per 1.200.000 automobilisti. Sono quelli che sono anche responsabili di un incidente nel corso del 2013. È un dato scaturito dal 500.000 di preventivi effettuati negli ultimi 30 giorni dal sito e analizzati appunto da questo sito. Ed eccoci qua, iniziamo dal primo tema di questa giornata, che è Fiat. Cosa è successo? Lo riassumiamo di nuovo perché vale la pena. Allora, Fiat acquisirà da Veba la partecipazione del 41,5% in Chrysler. Operazione che verrà chiusa entro il 20 gennaio 2014. Cos'è Veba? È il fondo pensione del sindacato americano United Auto Workers. Fiat verserà a Veba 3,65 miliardi di dollari, di cui 1,75 cash in contanti e 1,9 come dividendo straordinario. Saranno altri soldi da versare in 4 anni, in tutto circa 4,3 miliardi. Il sindacato ne chiedeva inizialmente 5. Il lingotto salirà così al 100% di Chrysler e diventa il 7° produttore di auto al mondo. Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera, ciao. Buonasera e buon anno a tutti. Buon anno anche al professor Giuseppe Berta, docente di storia economica all'Università Bocconi di Milano, autore di molti libri, tra cui Fiat Chrysler e la deriva dell'Italia industriale, edito dal Murino, quindi quanto mai adeguato. Insomma, verremo da lei, professor Berta. Intanto voglio sentire Andrea Malan. Naturalmente l'accordo è stato accolto con grande soddisfazione. Andrea, vedo adesso un comunicato di Weba, tra le altre cose, no? Sì, il comunicato di Weba è positivo, non poteva che essere altrimenti, ovviamente avendo firmato l'accordo. Ricordiamo che il problema di Weba, che è un fondo, ti correggo lievemente, sanitario e non pensionistico, cioè paga in sostanza l'assistenza sanitaria ai pensionati della Chrysler, è nato nel 2009 quando la Chrysler è andata in bancarotta. In sostanza i sindacati hanno avuto da un lato le azioni di Chrysler, quelle vendute ieri, dall'altro un bond della stessa Chrysler, quindi è un fondo che aveva, come dicono gli americani, tutte le uova nello stesso paniere e quindi una posizione molto rischiosa. Per loro avere dimezzato il rischio, cioè vendendo le azioni e tenendosi solo il bond, è sicuramente di per sé una cosa positiva, anche se, come hai ricordato, hanno incassato meno di quanto avrebbero voluto. Quindi soddisfazione anche da Weba e non poteva essere diversamente. Allora, ci dai un quadro dell'impatto finanziario? Perché oggi leggiamo una critica abbastanza forte da parte dei Wall Street Journal a tutta l'operazione, che dice, insomma, innanzitutto non risolve i problemi di Fiat. E dice ancora, in realtà Chrysler porta in dote altro debito per Fiat. Dunque, allora distinguiamo l'aspetto finanziario da quello industriale. Dal punto di vista finanziario, la novità che non tutti si aspettavano, almeno in questi termini, è che Fiat paga pochissimo in termini di cash, di liquidità propria alla Chrysler, cioè 1,750 miliardi di dollari, quindi meno di 1,5 miliardi di euro. Il resto lo paga la stessa Chrysler. Cosa vuol dire? Che ovviamente, essendo Chrysler consolidata, dal gruppo Fiat escono di fatto 4,3 miliardi di dollari, anzi per ora 3,8 più qualcuno altro nei prossimi anni, quindi esce una somma consistente. Il debito netto del gruppo quindi aumenta dello stesso ammontare e arriva, le stime sono attorno ai 10 miliardi di euro, che non è poco. Fiat Chrysler è il gruppo automobilistico più indebitato e anche più indebitata di Peugeot. Ricordiamo che per esempio tutti gli altri gruppi europei, tedeschi, sono in una posizione attiva dal punto di vista finanziario. Questo cosa vuol dire? Che nei prossimi anni dovrà cercare di ridurre questo debito e al tempo stesso finanziare una politica di investimenti necessaria a mantenere le posizioni sul mercato. Per questo alcuni analisti avevano ipotizzato, se non un aumento di capitale di Fiat, che sappiamo non ci sarà perché non è necessario, un aumento di capitale dopo per l'insieme di Fiat Chrysler. Su questo non è stato ancora detto nulla, non è detto che arrivi, non si sa se e quando arriverà. Marchionne stesso ne aveva parlato nei mesi scorsi. Diciamo che il fatto che il capitale non debba aumentare subito per Fiat è quello che oggi ha scatenato gli acquisti in borsa. Il mercato temeva che Fiat dovesse subito aumentare il capitale per finanziare l'operazione, invece non dovrà farlo. Poi per il dopo abbiamo un primo giudizio dell'agenzia Fitch di rating che dice che per ora non cambia nulla, sì, anche se si riserva poi di guardare i risultati dell'insieme del 2013 che verranno resi noti fra 3 mesi per appunto dare un giudizio, sì, su quello che è il cash flow del gruppo nel suo insieme, quindi su come potranno essere coperti gli interessi su questo debito. Sì, mentre c'è Citigroup che dice che continua ad avere preoccupazioni sulla sostenibilità del debito, dice il debito netto del gruppo aumenterà a 10 miliardi di euro che una volta completata l'operazione. Questo il quadro dal punto di vista finanziario, naturalmente ancora parziale. Io vorrei iniziare a coinvolgere il professor Berta per avere un suo giudizio dal punto di vista industriale della cosa. Poi verremo alla vicenda che fa discutere molto in Italia, a dir la verità. Insomma, vedo anche dei nostri ascoltatori che dicono, che ci scrivono: guardate, non è un tema di discussione. Il punto, che è quello del quartier generale, il punto è che Fiat faccia auto che si vendono. Poi se c'ha l'headquarter a Detroit o a Canicattì, poco importa. Insomma, però, professor Berta, dal punto di vista industriale, come giudica l'operazione? Ma dal punto di vista industriale direi che apre una prospettiva per l'Italia che prima era nebulosa, nel senso che adesso si dovrebbe poter dar corso ai piani già annunciati in America da Marchionne negli ultimi mesi, vale a dire l'intervento che è a Torino per creare un unico polo tra Gugliasco e Mirafiori, e poi anche completare l'intervento di ristrutturazione della fabbrica di Melfi e poi intervenire anche su Cassino. Tutto questo perché qui si apre una pagina molto importante che poi sarà una sorta di prova del fuoco dell'efficacia del nuovo gruppo dell'auto, vale a dire il rilancio sempre annunciato e non ancora perseguito del marchio Alfa Romeo. Questo è il vero nodo. Nello scorso anno la Fiat ha fatto un investimento importante sullo stabilimento di Gugliasco per la produzione delle nuove Maserati, quattro porte e Ghibli, facendo sempre intendere che questa operazione serviva un po', diciamo così, da battistrada, no? Per l'innalzamento della qualità della gamma Fiat, e questo implica il passaggio al marchio Alfa e, come si dice, implica anche il lancio della nuova Giulia e l'avvio della pre-serie in tempi piuttosto rapidi, vale a dire alla fine del 2015. Dunque l'operazione Fiat Chrysler per l'Italia si lega a questo tentativo di riposizionamento del prodotto Fiat e lo spostamento verso l'alto di gamma. Naturalmente questo implica molte energie perché i concorrenti sono agguerritissimi. Vedremo se questa operazione, che è sempre stata accennata ma non è stata finora perseguita, potrà esserlo nei prossimi anni. Eccoci di nuovo a parlare di Fiat. Allora, Andrea Malan del Sole 24 Ore. Allora, so che così è mal posta, però è la domanda che si stanno facendo tutti: se ne vanno oppure no? Beh, diciamo che dal punto di vista formale è sicuramente una possibilità, cioè che la sede, la quotazione in borsa, per esempio, verrà sicuramente aggiunta a quella a Wall Street, che poi sia principale o secondaria lo vedremo. Anche dal punto di vista, diciamo, legale. Cioè, dice, la quotazione in borsa del nuovo conglomerato, diciamo così, di questa nuova Fiat Chrysler tutta intera, dici, sì. La nuova Fiat Chrysler potrebbe andare a Wall Street. La sede legale potrebbe andare in Olanda. Ricordiamo il caso CNH Industrial, insomma, per motivi fiscali e di diritti di voto, di possibilità, più flessibilità negli statuti societari, è stata fissata in Olanda, tra l'altro con una sede legale in Inghilterra, una cosa molto complicata. Quello che interessa, credo, ai lettori e anche a noi è dove rimarrà la testa del gruppo, la testa pensante. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che difficilmente si potrà immaginare, almeno nel medio periodo, un gruppo con più teste pensanti. Storicamente un gruppo di questo calibro, di queste dimensioni, nel settore auto, ma in generale anche in altri settori, ha una testa pensante e un quartier generale. Certo, per l'Italia il rischio è che, essendo la Chrysler attualmente più grossa e più robusta finanziariamente, finisca per gravitare anche il quartier generale là. Tra l'altro evidente un altro rischio: ovviamente la proprietà rimane ancora in mano all'Exo degli Agnelli, quindi l'operazione di ieri non cambia nulla da questo punto di vista. È vero però che il referente di questa operazione, quello che ha avuto la fiducia degli americani e quello che l'ha gestita da 5 anni a questa parte, è Sergio Marchionne, che diciamo un po' miracolosamente, essendo italo-canadese, quindi avendo le radici in Italia, ma essendo cresciuto oltre Atlantico, ha potuto ottenere la fiducia di entrambe le parti. Dipenderà anche da chi sarà il successore di Marchionne. E questo è un punto. Professor Berta, poi alla fine, e qua veniamo a quello che è il tema più generale, no? Dal quale deriva, facciamo derivare da tutta la vicenda Fiat Chrysler, che poi alla fine è quello che tratta lei nel suo libro. Innanzitutto chiedo anche a lei una previsione e soprattutto una valutazione. Ha senso per Fiat mantenere l'headquarter in Italia? Allora, ha senso mantenere l'headquarter per quanto riguarda il presidio delle attività europee, non il presidio delle attività generali. Io non credo che realisticamente si possa pensare che Torino coordini il resto del mondo. Dunque, io penso invece che Torino possa coordinare la presenza delle attività europee, questo sì. Però se dovessi, allora andiamo nel campo del futuribile, se io dovessi immaginare un successore di Marchionne, dico sinceramente che immagino che non abbia il passaporto italiano. Ah, ok, e quindi anche oggettivamente poco interessato all'Italia. No, interessato finché è un'area di business importante, però voglio dire, io credo che oggi, se davvero l'ambizione è quella di costituire un gruppo globale, e continuo anche ad aggiungere che un gruppo globale però deve avere una ben più forte presenza in Asia, in Cina in particolare, che resta, come dire, l'area scoperta di questa geografia del gruppo, allora io penso che la tendenza sia quella di guardare a un management effettivamente internazionale, come ha già fatto Marchionne in questi anni. D'altronde Marchionne è di formazione, di cultura, un manager americano, direi. La porto sulla questione più generale, no? Perché qua parliamo di un progressivo distacco di quella che è stata la nostra impresa simbolo, no? L'impresa simbolo di questo paese per tanti certo. anni, professore. Certo. Vorrei capire, secondo lei, che cosa significa questo? Ma guardi, io penso che l'abbiamo già interiorizzato questo cambiamento. Se lei va indietro di 10 o 15 anni e ripensa la Fiat dell'avvocato, di Romiti, era una Fiat che parlava come un soggetto politico, si esprimeva su tutte le questioni di rilievo nazionale, per non parlare delle questioni sportive, calcistiche e così via. L'esperienza di Marchionne è di aver sganciato la Fiat da tutto questo. La Fiat infatti parla pochissimo oramai e ha anche, come dire, strutture comunicative ridotte all'osso. Allora già in questo io vedo un segnale presente, un segnale chiaro in tutto il paese. A noi interessa l'Italia come business, come area strategica, ma non siamo più l'Italia, non siamo più dentro la costituzione materiale del paese. Questa rottura si è già consumata da qualche anno. E quindi, diciamo così, questa fusione da questo punto di vista, dal punto di vista, diciamo, prettamente storico, insomma, del legame del legame di Fiat con questo paese non cambia molto, diciamo. No, oramai il distacco è già avvenuto, ed è nell'ordine delle cose. Da quando è intervenuto Marchionne, non a caso un manager che non aveva avuto rapporti con la vecchia Fiat, che non aveva mai incontrato l'avvocato, che non sapeva nulla di tutto questo mondo e che si è mosso con crescente segni di insofferenza o almeno di estraneità verso il sistema italiano. Pensiamo al rapporto con la Confindustria. Un'ultima domanda ad Andrea Malan. Ci fa notare un ascoltatore, dice, questo poi a testimonianza del fatto che quello che vediamo come un male in certi casi può essere un bene per le nostre aziende, dice, a Fiat è andata bene che il dollaro è ancora molto debole. Certo, probabilmente il momento di chiusura dell'operazione è stato particolarmente favorevole e non è stato scelto a caso, immagino. Assolutamente a Fiat è andata bene, diciamo che per quanto riguarda il momento in realtà è stato più determinato dall'esigenza di liberarsi del socio di minoranza e di evitare quello che aveva chiesto il VEBA, cioè un IPO, una quotazione in borsa della stessa Chrysler, che avrebbe complicato molto le cose. A proposito del dollaro, che tu hai citato molto opportunamente, è sicuramente un vantaggio, ma porta anche un rischio, e cioè il piano di Marchionne di fare dell'Italia una base di export anche verso gli Stati Uniti è ovviamente tanto più difficile quanto più l'euro è forte e il dollaro è debole. Per cui esportare a decine di migliaia le Alfa Romeo verso gli Stati Uniti è progressivamente meno vantaggioso tanto più l'euro è forte. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe in realtà sperare che poi il dollaro inverta la marcia, e l'euro, tra l'altro, anche per motivi generali legati alla competitività dell'economia europea a livello mondiale, inverta un po' la corsa. Ringrazio Andrea Malani. Invece ho un'ultima domanda per il professor Berta, che ci arriva da un ascoltatore e osserva quello che ci diceva lei prima. Dice: ma perché la testa pensante non può essere a Torino? La Volkswagen, per esempio, la testa pensante non ce l'ha in Germania, e le stesse aziende di auto come Chrysler, come General Motors, come Ford, la testa pensante non ce l'hanno a Detroit, che sì è negli Stati Uniti, ma non è, insomma, né New York né Washington, insomma, per intenderci. Ah, io non vorrei parlare della città, male della città in cui vivo, ma è evidente che Torino ha subito in questi anni un processo di depauperamento del suo patrimonio industriale. Allora, oggi Mirafiori è una realtà da rivitalizzare, perché ha prodotto quest'anno, cioè scorso anno, mi scusi, soltanto l'Alfa Mito, che è un po' poco, e così via. Cioè, mi sembra difficile che dopo un processo che è durato più di 10 anni di progressiva riduzione dell'uso degli impianti, si possa invertire totalmente la marcia e pensare di nuovo a espandere. Si può difendere quello che c'è, ecco, che è molto ridotto rispetto al passato. Sinceramente mi sembra improbabile ipotizzare, come dire, un ritorno al passato con il potenziamento di tutto quel mondo dell'automobile, la cui presenza qui si è fortemente attenuata. Grazie al professor Giuseppe Berta, grazie ad Andrea Malan, vi auguro una buona sera, di nuovo buon anno, e adesso è il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Alla fine a quanto ha chiuso Fiat? Fiat è balzata del 16,4%, sfiorando i 7 euro, ha chiuso esattamente a 6,92 euro. Ebbene, anche la controllante Xor, più 4,46% a 30,2. Giornata complessivamente negativa un po' su tutti i mercati europei. Milano sostenuta probabilmente anche da questa performance di Fiat, in realtà. Guarda, se il buongiorno si vede dal mattino, Milano ha fatto nettamente meglio delle altre borse europee. Nel finale ha provato ad andare su, e sul finale alla fine ha perso solo lo 0,2%, mentre Parigi ha lasciato sul parterre l'1,6%, Francoforte ad esempio l'1,59%, la stessa Madrid ha accusato una flessione dell'1,58% e Londra sta perdendo lo 0,45%. Quindi direi che Milano ha fatto nettamente meglio rispetto alle altre borse europee. Come mai questa debolezza oggi? Questa debolezza sicuramente c'è stato un pretesto, nel senso che gli investitori hanno deciso di portare a casa i profitti effettuati nell'ultima parte dell'anno, timorosi per l'andamento dell'attività manifatturiera cinese, che è piombata ai minimi da 3 mesi, e tale dato peraltro ha fatto frenare anche le borse asiatiche, fatta eccezione di Tokyo, che è rimasta chiusa per festività. D'altra parte si tratta più che altro di un pretesto, visto che proprio oggi peraltro è emerso il dato sull'attività manifatturiera europea, che si è portata ai massimi da 2 anni e mezzo. Quella italiana è balzata anch'essa ai massimi dall'aprile 2011, però evidentemente queste notizie sono passate sotto tono rispetto invece alle preoccupazioni, ma qualcuno evidentemente voleva portare a casa i profitti. Vi abbiamo parlato in apertura degli aumenti delle tariffe autostradali, pessima notizia per tutti tranne che per gli azionisti di Atlantia, Eleonora. Sì, Atlantia infatti è andata bene sin dalle prime battute, si è mossa sempre in rialzo e ha chiuso in progresso dell'1,29%. a pesare naturalmente è stato questo. Bene, Fonsai, più 3,58. Sì, Fonsai ha annunciato nell'ultimo giorno dell'anno di aver ammesso, di aver firmato i contratti di fusione con Unipol, Premafin e Milano Assicurazione, contratti che saranno effettivi a partire dal 6 di gennaio, quando peraltro non saranno più quotate le Fondiaria Sai, bensì le Unipol Sai. Il mercato sembra apprezzare e così ha fatto salire le azioni di oltre il 3%. Questa Yux, che lo ricordiamo, è un'azienda di e-commerce di moda, cioè commercio elettronico di moda italiana, non si ferma più, più 175% nel corso del 2013, oggi più 3,31. Sì, esatto, le azioni ormai è da un po' di sedute che corrono, esattamente da quando sono entrate a far parte del paniere principale, vale a dire del FTSE MIB, anche oggi più 3,31%, del resto se sta scattando la corsa ai saldi, a maggior ragione c'è anche la corsa alle buone occasioni su internet, e Yux è sicuramente leader del settore. Comunque oggi sono andati bene anche altri titoli del settore moda, ad esempio EF, che controlla Alberta Ferretti, Moschino e altri marchi, ha fatto più, addirittura più 14%, e Moncler, che ricordiamo aveva fatto un debutto esaltante nel primo giorno di quotazione, anche oggi ha continuato ad andare su, ha fatto più 2%, raggiungendo quota 16,12 euro. Finmeccanica, è arrivato lo stop alla commessa indiana, che in realtà era già atteso da mille indiscrezioni arrivate negli ultimi mesi. Il titolo ha retto inizialmente, poi un calo dell'1,09. Sì, Finmeccanica oggi si è mossa debole, ovviamente conta la notizia di ieri che il governo indiano ha annunciato la rottura del contratto per la fornitura di 12 elicotteri, anche il ricorso a un arbitrato internazionale. Del resto l'accordo valeva 560 milioni di euro, e quindi anche se si era un po' messo in conto che il finale fosse questo, evidentemente c'era chi sperava che potesse andar meglio. Per quanto riguarda le banche, ne vedo qualcuna negativa, come UBI meno 1,94%, Banco Popolare meno 1,79%, però ci sono anche banche in positivo, più 0,09 Unicredit, più 0,06 il Monte dei Paschi. Sì, esatto, in questo caso ovviamente più nel momento in cui si parla di banche bisogna guardare direttamente allo spread, che oggi si è portato sulla soglia dei 200 punti, non solo i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni hanno violato al ribasso la soglia del 4%, si sono portati al 3,99%, ovviamente tutto oro che cola per le banche che sono piene di titoli di Stato. Il Monte dei Paschi, ricordiamo che è una delle banche più esposte sui titoli di Stato, e quindi nonostante l'incertezza e nonostante che sappiamo che a maggio-giugno lancerà un aumento di capitale da 3 miliardi, i titoli hanno retto e si sono chiusi sui, hanno chiuso sui prezzi di ieri. Eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. Parliamo adesso di industria italiana. E ne vogliamo parlare in positivo, perché sono tante quelle volte nelle quali ci cospargiamo di cenere il capo, raccontiamo di quanto le cose vanno male. Poi in realtà in questa sofferenza ci sono delle nostre aziende che funzionano e funzionano veramente bene. Vivono i problemi che viviamo tutti e che vivono anche le altre aziende. L'eccesso di burocrazia, una fiscalità e una serie di adempimenti fiscali assolutamente opprimenti. Una normativa che non si comprende, eppure ce la fanno. Dunque, sentiamo a proposito di questo il passaggio del discorso del Presidente della Repubblica. Alla crisi di questi anni ha reagito col coraggio dell'innovazione una parte importante dell'industria italiana, indebolitasi già molto prima in produzioni di base certamente rilevanti, ma affermatasi in nuove specializzazioni. Quella parte dell'industria ha così guadagnato in competitività nelle esportazioni ed esibito eccellenze tecnologiche, come dimostrano non pochi primati della nostra manifattura nelle classifiche mondiali. Marco Fortis, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera e bentornato ai microfoni di Focus Economia. Buonasera a voi tutti e buon anno. Oggi, tra l'altro, buon anno anche lei naturalmente, firma un pezzo proprio a proposito di questo sul Sole 24 Ore. Le chiedo, professore, di partire da questo, dal dato aggregato sul surplus commerciale dell'Italia, perché quelle che Napolitano ha definito nuove specializzazioni hanno una parte importantissima. Sì, e diciamo che in questi anni di crisi c'è stata proprio una dinamica a due facce della nostra economia. I settori che hanno la possibilità di esportare maggiormente, che sono più aperti sui mercati internazionali, hanno sentito meno la crisi, intanto perché, come è stato riconosciuto dallo stesso Presidente della Repubblica, col coraggio e la spinta dell'innovazione hanno acquisito posizioni rilevanti, nuove specializzazioni nei mercati internazionali, hanno conquistato nuovi mercati e hanno avuto anche un vantaggio non indifferente alle imprese costrette a lavorare solo sul mercato interno, cioè quello di essere pagati immediatamente, che è una cosa importantissima. Invece, come sappiamo, è andato in tilt sul mercato interno non soltanto la domanda, ma anche il sistema dei pagamenti tra Stato e imprese e tra le stesse imprese. Certo. Quindi è un fenomeno questo che ha permesso a chi ha esportato, a chi ha guardato ai mercati esteri con diciamo una visione prospettica e strategica, di guadagnare rilevanti posizioni sui mercati. Da considerare che quest'anno arriveremo ad avere un surplus manifatturiero con l'estero che sfiorerà i 110 miliardi di euro. Siamo l'unico paese europeo tra i grandi assieme alla Germania ad avere un surplus di questo tipo e uno dei soli 5 paesi del G20 ad avere un surplus manifatturiero strutturale con l'estero. Sì, tra l'altro in questo surplus, come si diceva, giocano un ruolo importantissimo queste nuove specializzazioni e secondo i calcoli che lei ha fatto per la Fondazione Edison sui dati Istat, il 71,5%, almeno stando al 2012, vedremo come saranno poi i dati del 2013, il 71,5% del nostro surplus commerciale viene appunto da queste nuove specializzazioni. Ma cosa c'è, dentro, professore? Diciamo che mentre fino a 10-12 anni fa il nostro surplus commerciale era composto tra i settori manifatturieri attivi, grosso modo metà e metà tra i settori tradizionali, cioè quelli che ci hanno resi famosi nel mondo, il cibo, la moda, l'arredo, settori che rimangono ben inteso importantissimi e irrinunciabili per la nostra economia, però a quel tempo rappresentavano la metà del nostro surplus manifatturiero e l'altra metà grosso modo era rappresentata dalla meccanica, dai mezzi di trasporto diversi, degli autoveicoli, degli articoli in gomma e plastica. Oggi invece questi secondi settori hanno guadagnato un peso rilevantissimo, raggiungendo il 71% del totale del surplus manifatturiero, e quindi è un dato importante che rivela come la nostra economia si sia modernizzata e, pur conservando i segmenti del lusso nei prodotti per la persona e la casa, che vanno incontro tra l'altro alle tendenze dei consumi dei nuovi paesi emergenti, i cui ceti affluenti vogliono il made in Italy della moda, vogliono il made in Italy dell'arredo, però a questi paesi oggi siamo in grado di offrire anche tecnologie che abbiamo sviluppato in questi anni e che sono proprio le tecnologie vincenti sui mercati esteri, cioè macchine per l'industria, attrezzature meccaniche per l'impiantistica, per l'edilizia. Allora, chi ci scrive? Ma come fanno a funzionare bene con questa tassazione? Non dite scemenze. Guardi che abbiamo premesso che vivono i problemi che vivono comunemente anche le altre aziende, solamente che sono riuscite a mettere la testa fuori, sono riuscite ad andare all'estero, a fare delle produzioni innovative, in alcuni casi, professore, immagino anche a stabilire loro i prezzi, perché magari fanno cose che fanno solamente loro e che le altre aziende o i consumatori possono comprare solamente da loro, quindi a quel punto è chiaro che i margini riesce a mantenerli, no? Sicuramente questo è vero, perché molte nicchie in cui si sono specializzate le imprese del Made in Italy che esportano sui mercati esteri sono nicchie in cui viene premiata proprio la capacità italiana di fornire non solo un prodotto ma spesso anche un servizio completo al cliente, un'assistenza post vendita, una fase anche di progettazione a monte. Cioè abbiamo nella stessa meccanica, ci sono delle imprese che operano quasi in modo sartoriale per il cliente, cioè che riescono a fare, che so, i banconi frigoriferi per supermercati ad hoc in base alle esigenze del cliente, alla tipologia degli stabili dove queste attrezzature frigorifere devono essere installate. Ci sono delle aziende che fabbricano delle macchine per imballaggio ad hoc per settori più diversi, della farmaceutica, dell'industria alimentare. Quindi è un po' come se avessimo trasportato anche nella meccanica quella predisposizione alla sartorialità che è tipica delle imprese che operano nel settore della moda. Naturalmente questo non giustifica il fatto che comunque in Italia ci siano delle condizioni in cui devono operare le imprese che sono decisamente vessatorie, ecco, sotto il profilo della burocrazia, della tassazione, come lei ha ricordato. Quindi il successo sui mercati esteri non ci deve far dimenticare che chi è costretto, anche per, diciamo, le caratteristiche merceologiche delle proprie produzioni, a vendere sul mercato interno, deve operare in condizioni molto difficili. La ringrazio, professor Marco Fortis, per essere stato con noi, editorialista del Sole 24 Ore, docente all'Università Cattolica di Milano. Buonasera e buon anno. Buonasera, di nuovo. Buonasera. A chi ci scrive, fate i nomi, che so, la Danieli, sì certo, la Danieli, c'è Luxottica, ma ce ne sono tantissime altre, le cosiddette multinazionali tascabili, delle quali tanto abbiamo raccontato. Il Sole 24 Ore oggi cita un caso che è anche curioso, se volete, no? L'azienda si chiama Brugola e nasce dall'uomo che ha dato il nome all'attrezzo Brugola e che adesso ha trovato una nuova specializzazione. La specializzazione è la leadership mondiale nei sistemi di fissaggio per i motori d'auto. E io non lo sapevo che la Brugola avesse questa leadership, ce ne sono tante piccole che riescono. Grazie a Mauro Del Corno in redazione, Pietro Lacorte in regia, a tutti voi per l'ascolto, a domani dopo il GR delle 17.